Ehi! Questo baccano, che succede? È la stampa, bellezza, la stampa. La rassegna stampa di Radio 24, a cura di Bruno Perini. E tu non ci puoi far niente, niente. Nel nulla dipinto di nulla della vita videogioco accade che quattro imbecilli diano fuoco a un uomo per noia. Volevamo solo divertirci, hanno detto, dando fuoco a un uomo. Fra tanta enfasi giornalistica in eccesso, su tutto dal meteo alla borsa, ripristiniamo per una volta utilmente l'esclamativo, per restituire valore alle parole, cioè alle persone, e per compatire, anzi autocompatire, altre parole, le nostre, cioè le fiumane di commenti, analisi, disquisizioni, dissertazioni che hanno tentato di trovare un significato a quel gesto. Dagli studi di Radio 24 un saluto da Bruno Perini, in regia con noi Carmelo Lauricelli, e Giovanna Zucconi, che firma sul quotidiano La Stampa questo commento, quelli del nulla, riferendosi ai ragazzi che hanno tentato di bruciare e quindi hanno bruciato e tentato di ammazzare quindi un crociar quasi per noia. Dice Giovanna Zucconi, dobbiamo dare senso a ciò che un senso non aveva neppure per chi l'ha commesso, dunque non c'è niente da spiegare, non c'è niente da capire, inutile scavarci dentro nel nulla fatto di nulla, per automatismo umanistico, voci anche gregge si sono invece volontariamente sforzati di rintracciare ragioni plausibili di quella violenza. Dice anche magari forme residuali, ombre di ideologie, e invece no, separati dalle opinioni, i fatti si rivelano per quello che sono, un nulla causato da nulla, che però causa a sua volta e senza neanche accorgersene dolore e orrore. E il 10 novembre a un uomo che dormiva su una panchina a Rimini, Andrea Severi, di 44 anni, viene dato fuoco. 14 giorni dopo, ieri, la squadra mobile arresta 4 ventenni incensurati che confessano: volevamo solo divertirci, un barista, un impiegato, un elettricista, uno studente, di famiglie modestissime ma normali, ha detto la polizia, di buona famiglia, forse perfino di famiglia buona. Intanto però Andrea Severi è ancora ricoverato al centro Grandi Ustionati di Padova, con ustioni di secondo grado, di secondo e terzo grado su metà del corpo, non è morto per poco. Queste sono le considerazioni che vengono fatte da Giovanna Zucconi sul quotidiano La Stampa. Scrive ancora Giovanna Zucconi, chissà che divertimento immaginare la pelle che si scioglie, si carbonizza, bronchi e polmoni ostruiti, le infezioni batteriche che straziano. Scrive, forse le ideologie servivano almeno a riempire il cervello, avendolo si intende, dice, qui non c'è neanche l'ideologia. Questo Giovanna Zucconi. Il quotidiano La Stampa si occupa invece del tema centrale, quello economico, quello che riguarda milioni di famiglie, bonus figlie, stop alle tariffe, il pacchetto del governo, Tremonti, necessario l'aiuto di tutti. Ma la CGIL dice insufficiente e conferma lo sciopero. I primi commenti sono in una direzione abbastanza univoca. Per esempio, sempre Pietro Garibaldi, sempre sul quotidiano La Stampa, scrive: questa settimana il Consiglio dei Ministri si appresta a varare su un pacchetto di misure economiche per sostenere il Paese durante la recessione. L'insieme di interventi è stato ieri illustrato. In momenti difficili e con poche risorse a disposizione, cercare di accontentare tutti è impossibile, e la soluzione di Pietro Garibaldi è questa, dice: i lavoratori più a rischio con l'arrivo della recessione sono proprio i precari, sarebbe quindi necessario introdurre un sussidio unico di disoccupazione applicabile a tutti i tipi di contratto, includendo anche i lavoratori a progetto con un solo contratto e una sola fonte di reddito. Ecco, quindi la soluzione, dice, non si può dare a pioggia denaro a tutti, dice Pietro Garibaldi sulla stampa, bisogna concentrarlo sui lavoratori precari, quelli che potrebbero a breve, si è parlato ieri di 500.000, 400.000, ecco, che a breve potrebbero perdere il posto di lavoro senza il rinnovo del loro contratto. Di queste questioni ovviamente dico si occupa il Sole 24 Ore, che apre il giornale bonus figlie tariffe ferme. Il Sole 24 Ore di oggi però, che analizza il piano del governo e ricorda che si mette mano anche ai mutui, ricorda le dichiarazioni di Marcegaglia, prima sconti sul salario di produttività, poi gli straordinari, ecco, diceva il Sole 24 Ore, però affida invece invece a Luigi Zingales un commento sul quello che sta avvenendo negli Stati Uniti. Citigroup salva, borse euforiche. E vediamo cosa scrive il Zingales, perché è una voce critica abbastanza severa. Il titolo Citigroup ha festeggiato con un rialzo del 58% il piano di salvataggio del governo USA, ma i contribuenti americani non hanno nulla di cui rallegrarsi. Il conto del piano Paulson continua ad allungarsi. Il governo non solo inietta altri 20 miliardi di dollari di capitale dopo i 25 già versati, ma si sobbarca un costo di almeno altri 60 miliardi per le garanzie sugli asset a rischio. Insomma, dice, scrive Zingales, questo non è buono quello che sta avvenendo. Il governo di Washington ha minato le regole fondamentali del capitalismo e trasformato la borsa in una ricevitoria di scommesse sulle azioni di governo. Ha minato le regole perché ha deciso i salvataggi non in base a criteri di merito, ma nell'ipotesi più generosa a caso, e in quella più maligna sulla base delle simpatie personali, e ha trasformato la borsa in una casa da gioco, perché qualsiasi fondamentale sui titoli viene stravolta dall'azione di un governo che cambia le sue decisioni una volta alla settimana. Davvero pesante, questa è molto critica, molto dura, questa critica di Luigi Zingales ai provvedimenti che sono stati presi dal governo americano. Ora sul Sole 24 Ore di oggi anche un'analisi di Michele Tiraboschi, docente di diritto del lavoro all'Università di Modena. Michele Tiraboschi sarà l'ospite stamane alle 8.30 a Dietro la Notizia, la trasmissione condotta dal nostro direttore Gianfranco Fabi. Parlerà ovviamente del tema più caldo adesso, recessione e mercato del lavoro. Ora diamo la linea all'anticipazione del GR e poi torniamo alla rassegna stampa. È la stampa belletta, la stampa. Come trovare più soldi per le famiglie? Il governo ieri sera ha presentato un piano di circa 4 miliardi di euro per contrastare la recessione. Sono troppo pochi e vengono dispersi, come al solito, in mille ripoli. Quindi saranno del tutto inefficaci. Questo pensa Tito Boeri, l'economista bocconiano Tito Boeri, sulla prima pagina del quotidiano La Repubblica. E scrive ancora Boeri, è possibile invece attuare interventi più ambiziosi senza mettere a rischio i nostri conti pubblici. Per farlo però ci vogliono due condizioni. La prima è saper scegliere la priorità delle cose da fare e quella da non fare. Solo pochi interventi mirati, consistenti e duraturi sono in grado di avere un impatto sul comportamento di famiglie e imprese, riducendo la durata della crisi. La seconda condizione è saper approfittare della recessione per rimettere la casa in ordine, come stanno facendo tutte le famiglie e le imprese italiane. È possibile avviare fin d'ora un processo di ristrutturazione della spesa pubblica che porti a risparmi consistenti, quindi saremo usciti dalla crisi. Nessuno ci chiede di ridurre il nostro indebitamento oggi, nel mezzo della crisi. E quindi dice Boeri, un po' sull'onda di quello che ha scritto Garibaldi sulla stampa, bisogna avere un obiettivi mirati per poter essere efficaci, altrimenti se noi distribuiamo a pioggia denaro non è possibile farlo e non avremo sicuramente risultati efficaci. Una tregua facile. Federico Rampini invece si occupa da San Francisco, la madre di tutti i salvataggi bancari. Ma basterà il tesoro USA dopo una convulsa domenica di trattative durate fino a notte inoltrata? Ha dovuto mettere in campo il più gigantesco cordone di aiuti mai usato per evitare la bancarotta di un colosso del credito. E il colosso del credito, lo sappiamo tutti, è Citigroup. Scrive Rampini, Citigroup che per gran parte della sua storia fu la più grande banca americana e mondiale, non poteva essere abbandonata al suo destino. La settimana scorsa le azioni avevano perso metà del loro valore, 90% in meno dai massimi dell'anno scorso. Le voci di insolvenza erano assillanti durante il weekend, ma tenere in piedi Citigroup costerà molto al contribuente americano. Ecco un'altra tesi che viene diffusa da Zingales sul Sole 24 Ore, cioè attenzione, perché questi soldi non è che vengono tirati fuori dal nulla, ma vengono pagati dal contribuente che già paga un salasso forte. Il tesoro si è accollato di fatto 306 miliardi di dollari di titoli spazzatura sui quali ha offerto una copertura statale. Se il loro valore crolla a zero, il crack Iraq sarà ripianato dalla garanzia pubblica. Questo scrive Federico Rampini, e infatti si parla di un salvataggio, ma che è già un pasticcio. Bisogna vedere, per il momento le borse oggi, come sappiamo anche dai GR, hanno tenuto bene, anzi la notizia del salvataggio di Citigroup ovviamente ha fatto salire le borse. Vedremo però quanto tiene questa risalita. E il caso, sempre sulla Repubblica, dopo la tragedia di Rivoli, centinaia di testimonianze su Repubblica.it, vi racconto la mia scuola che sta cadendo a pezzi. Questo dal quotidiano La Repubblica. Ora, per rimanere sul tema della politica economica e dei provvedimenti che sta prendendo il governo, voglio trasferirmi invece sul quotidiano Libero. Libero è Vittorio Feltri che se ne occupa, Oscar Giannino in questo caso si occupa d'altro, e invece è Vittorio Feltri il direttore che si occupa di questa questione, e se ne occupa andando a vedere e considerando che cosa, se davvero c'è la crisi, se tutti gli esperti e presunti tali affermano che la crisi in arrivo sarà grave, quantomeno una valanga, conviene attrezzarsi ad affrontarla, ciò che non mi pare stia avvenendo. E le perplessità di Vittorio Feltri sono proprio sulla filosofia, come dire, messa in circolo dal Presidente del Consiglio rispetto ai consumi, cosa che ha creato anche qualche polemica. Berlusconi incita i cittadini a consumare allo scopo di rilanciare la produzione e i commerci. La sua però non mi sembra una soluzione idonea, scrive Vittorio Feltri. Fino a ieri abbiamo condannato il consumismo, l'uso e getta, gli sprechi, la nauseante opulenza, e adesso all'improvviso controordine, riempitevi i frigoriferi, gettate nella pattumiera quanto avanza e va in malora. Abbiamo ancora negli orecchi le prediche dell'ex ministro Sirchia, basta con le merendine che provocano l'obesità dei bambini, i quali poi saranno adulti ciccioni e costeranno l'ira di Dio alla sanità pubblica. Il Presidente del Consiglio all'epoca non lontana di Sirchia era lo stesso di oggi e immagino condividesse la linea del suo ministro. Ora però il governo spinge nella direzione opposta, ingozzatevi di cibo e correte in farmacia a rifornirvi di digestivi, un ruttino e sarete pronti a entrare in un'altra trattoria, avete una macchina sola, stupidini, cosa aspettate a farvi una SUV o una city car? Non sapete dove parcheggiare? Lasciate la vettura in strada, abbelliscono il paesaggio. Ragazzi, assaltate i supermercati. Questo è il modo suggerito dal Cavaliere per fugare la crisi. Sbaglierò, ma la ricetta mi sembra inadeguata, per non dire illogica, come mi sembra un errore dare un contributo, una tantum, una sorta di strenna natalizia a chi ha un reddito basso per incrementare i consumi. Come dire, non si può pensare, e forse qui c'è un'idea, non si può pensare di dare un una tantum, perché così sicuramente i consumi possono avere l'impulso davvero una tantum e non in modo permanente. Il quotidiano Libero dedica ben due pagine, Gianluigi Paragone, il vice direttore di Libero, al libro di Antonio Di Pietro, Le confessioni di un inquisitore, ed è sono parole molto molto severe attorno, sono due pagine, Confessioni di un inquisitore di Pietro, si processa e si assolve, Tangentopoli, la politica, il Cavaliere Veltroni, in un libro 15 anni di storia italiana nella versione dell'ex PM. Questo si legge su Libero, e ci sono una serie di casi come il Lodo Alfano, il caso Liberian e via dicendo. Eppure la scintilla fra Tonino e Silvio poteva scoccare. Questo dice nel suo commento Gianluigi Paragone, uno dice dell'altro che gli fa orrore, quell'altro gli risponde che è come Hitler. Silvio Berlusconi e Antonio Di Pietro non si possono vedere, di più si odiano, ma la sera prima di coricarsi sono certo che entrambi pregano la Madonna di ritrovare la mattina seguente l'avversario in perfette condizioni di salute. Per Berlusconi il dipietrismo è un tonico, per Di Pietro l'antiberlusconismo è una polizza vita. Questo è l'analisi su Libero di Gianluigi Paragone, che commenta tra le altre cose il libro ultimo di Antonio Di Pietro. Ora Voglio vedere cosa invece scrive il quotidiano L'Unità. L'Unità si occupa del caso Chiodi. Il titolo infatti di apertura è Roba da Chiodi. Voto di scambio, il candidato della destra in Abruzzo chiede curriculum e offre lavoro. Il Partito Democratico dice intervenga la magistratura. Il messaggio dice vai alla bancarella di Gianni che sarei io e iscriviti al tuo futuro. Poi una voce femminile invita a presentare un breve curriculum, l'ambito di lavoro, i dati e l'indirizzo email. Ci ha provato Chiodi il bello, come ha detto Berlusconi, candidato del PDL alla Regione Abruzzo, a mettere sulla bancarella di Gianni, sportello virtuale e reale per il voto di scambio. In uno spot fatto sparire ieri dal sito del candidato e da YouTube in 4 e 48, Chiodi invitava i giovani a presentare curricula a novembre, quindi prima delle elezioni, con la promessa di essere selezionati a gennaio per un posto di lavoro imprenditoriale. Il vero voto di scambio è un reato, scrive Natalia Lombardo sull'Unità. Infatti Cesare Damiano del Partito Democratico auspica un intervento della magistratura. La prima a denunziare il video è stata la Rifondazione Abruzzese, poi Francesco Storace. Chiodi, come faceva Achille Lauro, non con le scarpe, prima e dopo le elezioni, ha tuonato il leader della destra, che in Abruzzo candida Teodoro Bontempo. Lo spot registrato da Abruzzo 24 ore TV .it è finito su YouTube e nella rete, compreso il sito di Carlo Costantini, candidato dell'Italia dei Valori con il PD e Rifondazione. Ecco, quindi c'è tutta una ricostruzione sull'Unità, voto di scambio in Abruzzo, Chiodi, PDL, offre lavoro. E questo possiamo vi è anche un'analisi di Loretta Napoleoni, spiega le misure del presidente USA per le famiglie più deboli, crisi storica, Obama schiera i suoi assi. Questo il quotidiano L'Unità. Ora il Corriere della Sera. Il Corriere della Sera, intanto c'è una vignetta di Giannelli, magie, caro Obama, anch'io ho messo nel governo le migliori menti del paese, ci sono un po' tutti gli esponenti del suo governo. Però quello che mi interessava segnalare sul Corriere della Sera è un intervento di Federico Fubini, si deve morire per Maastricht. Demenziale è un aggettivo che Giulio Tremonti ama molto, ma è forse la prima volta che gli capita di usarlo nel contesto di ieri. Demenziale, ha detto il ministro dell'economia, sarebbe un ragionamento su un'ipotesi di allentamento del patto di stabilità. Ecco, sì, e questo è un punto importante che viene trattato da Federico Fubini e Mario Sensini sul Corriere della Sera. Mario Sensini ne fa la cronaca, perché riporta un'opinione del ministro Tremonti, che forse è in contrasto anche con altri esponenti della maggioranza, che dice non si può in alcun modo rompere il vincolo europeo. Allentare i vincoli del patto di stabilità sarebbe demenziale, un messaggio chiaro alle parti sociali, ma diretto anche ai colleghi ministri, scrive Mario Sensini, affannosamente alle prese con i budget del 2009 ridotti all'osso dopo le sforbiciate della legge finanziaria, che puntualizza il ministro non sarà riaperta. Ecco, questo il Sole 24 Ore ha dedicato un'apertura a questa dichiarazione, cioè la finanziaria non sarà riaperta e quindi si va verso la linea diciamo così dura e molto rigorosa. Questo si legge sul Corriere della Sera. E ancora Federico Fubini, che scrive: a qualcuno parà un rovesciamento delle parti o del pensiero unico europeo, quando i vincoli di deficit sembravano scolpiti nella pietra, Tremonti era indiziato di qualunque complotto. Ora invece che l'idea di un sostegno pubblico all'economia diventa ortodossia, il ministro si schiera a suo modo nella nuova minoranza. D'altra parte c'è uno schieramento largo, da Corrado Passera ad Intesa San Paolo, per il quale Maastricht oggi deve essere l'ultima delle preoccupazioni, al presidente della Commissione UE José Manuel Barroso, che invoca circostanze eccezionali. Ma davvero quello del ministro è solo piacere di contraddire? Non credo, nota Massimo Baldini all'Università di Modena. Capisco che Bruxelles ora incoraggi piani di stimolo in disavanzo, ma per l'Italia è diverso. Questo viene detto. Adesso diamo la linea alle notizie sul traffico e poi passiamo all'ultima parte della rassegna stampa. È la stampa, Belletta, la stampa. La CGIL sciopera e la Thailandia ci sorpassa, l'Italia che frena. Questo il titolo della pagina 5 del quotidiano Il Giornale. Nicola Porro fa un'analisi delle classifiche pessime per l'Italia, ma introduce anche elementi nuovi e così andiamo a leggere. La classifica dell'Economist ci mette al 40° posto nel mondo e dimostra che la differenza nel nostro paese non è più tra nord e sud, ma tra aziende protette dallo Stato e imprese che invece si confrontano con il mercato, scrive, si legge nell'articolo di Nicola Porro, che così scrive ancora: da queste parti si ha una certa allergia per le classifiche internazionali. L'Italia risulta incredibilmente sempre agli ultimi posti al mondo in qualsiasi lista si scelga di compulsare. Eppure l'Italia continua a produrre una ricchezza di 2.105 miliardi, poco meno di Francia e Gran Bretagna e più del Canada. Le nostre imprese esportano in tutto il mondo, in alcuni campi eccellono. I manager italiani sono sparsi in giro per il pianeta alla guida di grandi multinazionali. Ma ieri il rapporto realizzato da Business International su dati dell'Economist ha posizionato l'Italia al 40° posto nella classifica della competitività mondiale. Peggio di tutti in Europa, Grecia inclusa, e superati da Bangkok. Negli ultimi 20 anni, inoltre, la nostra crescita economica si è fermata rispetto al resto del mondo occidentale. Occorre dare, a nostro avviso, una giusta collocazione a indagini di questo tipo. Vi è una fotografia che spiega egregiamente le nostre contraddizioni. E qui scatta la polemica di Nicola Porro. Dice: perché mentre l'Economist certifica il sorpasso competitivo della Thailandia e il rallentamento economico coinvolge il mondo intero, Guglielmo Epifani, rappresentante del nostro più importante sindacato, non trova di meglio da fare se non scioperare contro la crisi. L'Italia è come divisa in due paesi: una parte produttiva, che dopo l'adozione della moneta unica si confronta con il resto del mondo, soffre e combatte per affermare ogni istante la propria ragione di vita, ed una parte protetta, che sopravvive solo grazie all'esistenza della prima e che è tutelata da quel topos ideologico che è l'interesse generale, ormai ridotto a poco più di un fantoccio, grazie al quale si giustifica una sorta di scudo dalla concorrenza. Effettivamente questi due settori, il settore protetto dei servizi pubblico e il settore invece esposto alla concorrenza internazionale, è una delle caratteristiche tipiche dell'economia italiana. Però resta il fatto che, insomma, gli indici di produttività proposti dall'Economist ci mettono al 40° posto. Il giornale apre la prima pagina con questo titolo: ecco chi avrà gli aiuti del governo, bonus per pensionati e figli, 120 euro a Natale per la social card, blocco delle tariffe di luce e gas. E ancora, in quella scuola c'erano altre 10 aule a rischio strage, si parla della tragedia di Torino, della morte del giovane sotto le macerie. Ecco, questo il quotidiano Il Giornale. Il Messaggero, invece mette in prima pagina un'altra vicenda, diciamo, di consiglieri regionali che sono un po' nei guai. Malagrotta: si dimette l'assessore, ora è bufera sul piano rifiuti, dopo il fuori onda TV sull'amicizia con il gestore dell'impianto. L'assessore ai rifiuti racconta la sua amicizia con il re dei rifiuti, Manlio Cerroni, ed è bufera alla Regione Lazio. L'intervista, un fuori onda trasmesso domenica sera nella puntata di Report, ha costretto Mario Di Carlo, esponente del Partito Democratico, a riconsegnare la delega. L'opposizione di centrodestra è insorta. Il sindaco di Roma Alemanno ha chiesto al presidente Marrazzo di rivedere il nuovo piano rifiuti che assegna un ruolo centrale alla discarica di Malagrotta. I colleghi del Partito Democratico hanno difeso Di Carlo. È stato un ingenuo, ma è onesto. Questo sul quotidiano Il Messaggero. Non fa l'eco Doppler da 10 mesi, in ospedale hanno rubato le sonde. Ecco un altro dillo al Messaggero, che viene pubblicato sulla prima pagina oggi del quotidiano romano. Il Riformista: strozzati dall'IRAP, pago l'83% di imposte sull'utile. Ieri Tremonti ha annunciato ai sindacati il pacchetto anticrisi del governo. È un imprenditore, scrive: ecco la nostra crisi. Caro direttore, sono il capo azienda di Intex, una società di Roma, 400 collaboratori collaboratori, 6 sedi italiane dislocate da Torino a Napoli e una in Francia. Dal 74 progettiamo e realizziamo applicazioni e componenti software per sistemi elettronici complessi nei settori dello spazio, difesa, ferroviario, telecomunicazione e controllo del traffico aereo. E che è quindi una testimonianza che dice siamo strozzati dall'IRAP. C'è anche Angelo De Mattia, commentatore da poco passato dall'Unità alla Riformista, aveva anche lavorato per il Manifesto e aveva lavorato a fianco a Antonio Fazio, governatore della Banca d'Italia. Angelo De Mattia scrive: occorrerebbe una manovra shock contro la recessione, contro i rischi della deflazione, un impulso forte con effetti assai ravvicinati innanzitutto alla domanda, una terapia d'urto per ora non rinvenibile nonostante alcune apprezzabili misure nella progettazione in corso dei provvedimenti che saranno portati al Consiglio dei Ministri di venerdì. E qui il tema è sempre lo stesso, dice: non si vorrebbe certamente far scavare buche per poi riempire secondo la distorta applicazione keynesiana, ma gli stanziamenti dovrebbero essere nuovi, consistenti, con efficacia a brevissima scadenza e anche questo, dice Angelo De Mattia, dovrebbero essere mirati, non possono essere generici, perché sennò non ce la caviamo più. Questo per quanto riguarda il Riformista, che c'è anche un Giampaolo Pansa, quello che io ricordo di Sandro Curzi, troppo buonismo in molti coccodrilli per Sandro Curzi, non sarebbero piaciuti nemmeno a lui. Kojak poteva sembrare un dirigente politico bonario e accomodante, in realtà era un comunista di quelli duri, intollerante e pronto a qualsiasi asprezza pur di dare addosso a chi la pensava in modo diverso. Questo scrive Giampaolo Pansa sulla prima pagina del Riformista, insomma dando un'immagine diversa da quella che hanno dato tutti i giornali di Sandro Curzi. Questo il Cavaliere della Mancia invece è il titolo del manifesto. Il governo presenta alle parti sociali il piano anticrisi che vuole varare venerdì, un po' di miliardi in opere pubbliche e una manciata di euro per gli indigenti. Tremonti si appella agli uomini forti e liberi mentre l'Italia precipita nella classifica della competitività e la CGIL prepara lo sciopero generale. E questo c'è anche una cattivissima vignetta di Vauro su Rivoli, sulla scuola crollata, fatalità, e c'è la maga Gelmini come soggetto della vignetta. Infine voglio il foglio. Larry, ti presento Citigroup risalva grazie a nuovi fondi e all'intervento dello Stato nella banca. Washington, Citigroup non può fallire, Citigroup deve essere salvata un'altra volta, e solerte come sa essere da ultimo l'amministrazione Bush, il piano di salvataggio per quella che era fino a 2 anni fa la prima banca in America, oggi la terza, è arrivato. Questo si legge sul foglio, e c'è un articolo invece dedicato a Rutelli. Rutelli fa il secessionista solitario, l'ex capo della Margherita soffre a stare nel Partito Democratico, vorrebbe andarsene e radunare intorno a sé le forze di centro, ma i primi a non seguirlo sarebbero i suoi amici DL. Intanto Melandri si aggiunge ai delusi da Walter Veltroni, e questo è uno degli servizi del foglio, e con questa segnalazione io ho concluso il mio tempo. Vi saluto, vi ringrazio e vi do appuntamento, come di consueto, a domattina.